Oh, si vede, si sente che non c'è qualcuno oggi, niente scherzi di sigle strane. Niente. Siamo partenza alla Game of Thrones, esatto. alla Carmina Burana oggi. Esatto, no, oggi tutto liscio, tutto normale. Ma vediamo, ancora presto per dirlo, ma sicuramente sono contento di essere tornato da questo lato del tavolo, perché settimana scorsa ero da quello degli ospiti, mi trovavo molto bene, devo dire, però mi sento meglio. Bentornato a tutti gli effetti al nostro camicia. Camisetta anche oggi, perché parleremo di America Latina anche oggi, quindi quando si parla di America Latina c'è il mio secondo nome in codice, camisetta. Ciao Dama, ciao Dottor Io. Ciao. Come state? Scappato il mulo, quindi? Sì, oggi manca lui. Saltato la staccionata. È proprio scappato, così. Insomma, siamo riusciti a riprenderlo oggi, però gli abbiamo dato una giornata, un mercoledì di libera uscita, dai, va bene. Anticiperemo forse da una telefonata a bruciapelo, così vediamo se lo mettiamo in imbarazzo come al nostro solito. Benvenuti sulle frequenze di Wombat Radio da Frittole Radio Contado, 13.59 AM per chi sta nelle zone fiorentine, se no ci starete ascoltando streaming in questo momento e speriamo non vi salta la linea. A noi sembra vada tutto bene per ora. Per ora, se no speriamo che qualcuno ci possa riascoltare coi podcast oppure anche con le repliche che sono il venerdì mattina e il sabato a pranzo. E siamo alla 34esima ormai puntata, 4 forse al finale di questa stagione. È stato un cammino molto lungo, impervio, ma con le sue soddisfazioni, quindi siamo contenti e subito ne approfittiamo per ringraziare tutte le ascoltatrici e ascoltatori, le milioni di orecchie che ci stanno supportando. No? E a chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di scriverci a radiocontado@insiberia.net. Dai, qualche mail, è un po' adesso che... No, ci piace, sappiate che ci emoziona tanto vedere arrivare le mail in diretta in questo momento e non ci credete, mandatecele, noi vi risponderemo all'istante, quindi fatelo se non ci credete. Insomma, si sta bene, si sta benone, sono contento di essere tornato in Italia, stavo bene anche in Bolivia, ma ovviamente non sono le mie radici. No, quindi oggi si parlerà di Sud America in genere o di Bolivia? Allora, brava, direi che si parla solo di Bolivia oggi, perché abbiamo da telefonare a, insomma, tre persone che hanno una certa esperienza nel settore Bolivia. Ognuno poi nel suo modo di lavorare, la sua specificità. Quindi, esattamente, però cercheremo un po' di indagare ovviamente quali sono il panorama boliviano, sia dal punto di vista delle lotte indigene, ovviamente approfondendo un po' il tema dell'estrattivismo, come ci ha insegnato Raul Sibeci, ovviamente l'America Latina è il laboratorio del nuovo, il taglier del nuovo, ovvero là dove sono stati coniati termini oggi usatissimi, dal termine agroecologia in sostituzione per alcuni di permacultura, ma anche il termine estrattivismo, ovviamente, in un continente che è stato soggetto a ogni tipo e tuttora è ovviamente preda di estrattivismi di ultime generazioni, ovviamente non possiamo, ecco, non tornare con un contributo a riguardo, no? No, e parliamo di Bolivia anche perché lo sappiamo, camisetta, che ti sta molto a cuore la Bolivia. C'è un pezzo, quindi, di cuore, sì. Sono già 7 anni che ci vado e quindi... L'hai detto anche nella scorsa puntata, insomma, ci raccontavi, ti senti a casa, ti senti accolto, insomma, c'è un po' la tua seconda famiglia, quindi va bene, vogliamo dare spazio a questa parte di te. Bene, cercheremo di darla, ovviamente. Io manderei subito un primo brano, così contattiamo la prima persona di oggi, il primo contatto, Barbara Magalotti, e la chiameremo a brevissimo, quindi vai con Los Destellos, On sta la hierbita. Boys and girls, attention please. Here is your group, Henry Delgado and the Stay. For a news, an answer for you dance boys. If you like to dance, very well, and then smoke a cigarette and put in wave dancing waves. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, yerba buena, volare, oh, cantar. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, babe. Come on, Jerry. Come on, Dora. Now, please. Leave. On sta la yerbita, dicono los destellos, che non sono un gruppo boliviano, però oggi mettiamo un po' di tutto, dalla Bolivia. Sarà Sud America, però anche certo, la musica. Per chi non l'avesse capito, anche la musica seguirà il filone Sud America. Assolutamente. Oggi mi sono impossessato, ho occupato la regia di Frittole dopo un mese e mezzo che non c'ero. Camisetta te lo concediamo perché sei appena tornato. Grazie, dai. Poi lo so, poi riabbasserò la cresta. È tutta tua questa puntata. Io e Drio siamo qua solo non succederà così più. A guardare. No, sono a guardare, sì. No. Bene, cominciamo subito alla grande, direi, perché abbiamo in collegamento telefonico Barbara Magalotti, una grande amica, e, insomma, che si occupa da ormai da più di 15 anni, lei essendo psicologa educatrice, lavora nel carcere di La Paz, il San Pedro, con i detenuti e i loro figli, che vivono tutti insieme nel carcere, magari ci spiegherà lei meglio come mai. Ciao Barbara! Ciao a tutti, ciao Camisetta! Ciao, tutto bene. Come va? Dove ti contattiamo? Non ti stiamo chiamando in Bolivia in questo momento, però. No, in questo momento sono in Italia, e quindi insomma nella zona dove abbiamo fondato la nostra associazione di volontariato, quindi da qui, dalla Romagna, dai Colli Romagnoli, ecco via voi, Barbara Magalotti. Grande! Dalle Ande alla Romagna! Appunto, come dicevi giustamente, la nostra associazione si occupa da tantissimi anni proprio di questa condizione, no, di detenzione, anche tra virgolette detenzione dei bambini, nel senso i figli dei detenuti che vivono con loro dentro al carcere di La Paz, al carcere San Pedro. E la nostra associazione ha visto la necessità, insomma, di operare, di fare qualcosa, di dare, come dire, un'infanzia serena a questi bambini e cercare di risolvere alcuni problemi, alcune problematiche, soprattutto di tipo relazionale, psicologico, emotivo, che questi bambini ovviamente, accompagnando i loro genitori in carcere, stanno vivendo, no? Vivono. Ma vivono in carcere, ecco. Se posso farti una domanda, Barbara. Cioè, inoltre la nostra equipe di educatori lavora soprattutto con quei detenuti che sono stati abbandonati proprio sia dalle famiglie che dal sistema penitenziario in genere. C'è già una domanda della dama, che anche lei un po' si occupa di queste cose, quindi avrà mille domande per te, e quindi subito con la prima. No, la domanda era, ma questi bambini vivono in carcere perché non hanno un'altra alternativa? Sono obbligati a seguire i genitori o è una cosa preventiva? Non lo so, per quale motivo? Sì, allora, diciamo che in Bolivia un genitore, no, si viene a trovare senza un ingresso per sostentare, insomma, la famiglia, è molto facile che tutto il resto, insomma, abbia bisogno di appoggiarsi da qualche parte. Ovviamente la presenza di bambini dentro le carceri boliviane è stato, dico parlo al passato perché è una cosa che dal marzo 2019, diciamo, stiamo cercando di risolvere, cioè di far fuori uscire i bambini, ma è legata alla presenza dei bambini soprattutto a livello di povertà, ma non solo una povertà di tipo economico, ci tengo a sottolineare questo fatto, ma anche proprio una povertà culturale, proprio una povertà anche di capacità anche di pensare a che cosa è meglio per il bambino, però sicuramente è per carenza di alternative che i bambini si vengono a trovare dentro un carcere. Ecco. Quindi lavorate anche con la genitorialità, con questi temi, insomma, dei rapporti e relazioni tra... Ovviamente siamo, cioè il fulcro, no, del nostro lavoro è sempre stato, no, aiutare i bambini a vivere un'infanzia serena e a superare tanti problemi, tanti scogli che da bambini un po' isolati e sicuramente etichettati dall'esterno ovviamente diciamo il flusso del lavoro è andato a toccare ovviamente anche tutta la famiglia, per cui il genitore detenuto, per cui anche la famiglia estesa, la famiglia che si trova all'esterno o addirittura la famiglia che vive tutta insieme dentro il carcere. È una condizione un po' strana, no? Noi siamo abituati a vedere le carceri come uno spazio assolutamente chiuso, ermetico e invalicabile quasi, no? Ma invece questo carcere è un carcere particolare dove sicuramente grazie anche all'aiuto della corruzione entrano tutti e può entrare praticamente chiunque. Questo fino alla fine del 2018, inizio 2019, perché si è cercato anche a livello di regime penitenziario, amministrazione penitenziaria e Ministero di Giustizia di arginare insomma questo tragico capitolo diciamo della giustizia boliviana, quello di far entrare tante persone solo pagando. Senti, ma come sei arrivata, come è stata un po' la storia, se riesci a sintetizzarla, insomma, di tutti questi anni, come sei arrivata in quel carcere? Perché non è, diciamo, un posto che uno va a scopre così per caso, no? Certo, l'incontro col carcere è stato casuale. Ero in Bolivia per fare un periodo di volontariato, ho visitato il carcere perché andavo a trovare una persona che era stata arrestata e per caso ho capito e ho visto la situazione dell'infanzia dentro il carcere e di lì è nata proprio l'impulso, l'esigenza, la volontà di far qualcosa per i bambini e per le loro famiglie. Soprattutto è stata proprio anche la consapevolezza di poter donare qualcosa a chi ha meno. Questo fatto sembra un po' scontato, però dentro di me ha giocato un ruolo molto importante il fatto di sentirmi molto fortunata e di voler condividere un pochino di questa fortuna con loro. Il progetto è nato, diciamo, come piccolo spazio dei giochi dei bambini, per i bambini che vivono dentro il carcere, e nel corso degli anni, perché ormai dal 2002 sono passati 16 anni, 17 anni, quindi insomma ne è passato di tempo, si è specializzato proprio questo progetto, diciamo si è evoluto, ha aggiunto aree di intervento, area psicologia, area ipoterapia, area scolastica, mediazione tra scuola e carcere, area sociale, insomma area salute, tante di quelle aree per cui i bambini alla fine hanno potuto vivere, penso e credo, la loro esperienza di vita dentro il carcere perlomeno con un gruppo di persone che diciamo affidabili e sicuramente professionalmente valide, che li hanno accompagnati nella loro crescita. Certo. E le vostre attività comunque si spostano anche fuori le mura, no, di questo carcere, che è un po' come un quartiere all'interno della città di La Paz, circondato da mura, però voi fate anche attività fuori, no? Sì, certo. Allora, prima di tutto facciamo attività con i bambini fuori dal carcere, quindi tantissime attività fuori recinto, ma in collegamento anche con un progetto che già da 3 anni stiamo portando avanti dentro il carcere, che è l'accompagnamento, proprio come un, diciamo, seminari di accompagnamento all'uscita dal carcere, quindi aiutiamo le persone che sono nel loro ultimo anno di detenzione a riflettere su quali sono state le dinamiche nella loro vita che li hanno portati al carcere e quali sono, no, i loro sogni, le prospettive per il futuro. E parallelamente a questo seminario, a questo grande laboratorio, insomma, permanente, abbiamo implementato un progetto nello Yungas boliviano, a circa 4 ore di macchina da La Paz, nella zona preamazzonica. Un progetto che intende accogliere le persone che, uscite dal carcere, non hanno, diciamo, nessun familiare e nessuna rete, diciamo, di accoglienza, pronti a sostenerli, insomma, in questa fase difficile del reinserimento sociale. E attraverso questo progetto vogliamo dare prima di tutto un po' di motivazione, no, a vivere in maniera onesta e a vivere in maniera anche, come dire, dignitosa la loro vita. E poi anche speranza anche nell'altro, anche nella gente, anche nella società, perché il fatto di essere stati rinchiusi tanti anni o anche poco, però sono anni duri quelli del carcere, ti portano poi anche un po' a disperarti, no? E una volta uscito a cercare proprio quasi fisiologicamente di ripercorrere sempre gli stessi passi, no? Certo. E quindi l'idea è quella di aprirgli una finestra su una prospettiva diversa, diciamo, su una alternativa. Direi, ecco, anche una finestra verde, perché ora è qui che fermiamoci un attimo in questo punto, perché essendo noi siamo proprio una trasmissione Radio Contado, no? Che si occupa proprio dell'aspetto poi della contadinanza, del ritorno della vita in campagna, e qui troviamo il collegamento poi con quella che è la tua esperienza, no? Perché qui cade la nostra attenzione, cioè come un progetto che si sviluppa all'interno della foresta delle Yungas, quindi quasi semitropicale, no? Come può aiutare il reinserimento sociolavorativo? Immagino con attività di tipo agricolo, anche solo semplicemente stando in pace in mezzo alla natura? Certo, è proprio la base e sicuramente il fulcro del progetto è la natura. Io dico sempre, anche solamente per i volontari, la selezione non la faccio io per telefono o con un colloquio, la selezione la fa la natura, perché la natura c'ha una potenza enorme. Noi con questo progetto non è che vogliamo fare della selezione, no, delle persone, però sicuramente la natura insegna, cioè la natura è una grande insegnante e anche un grande specchio di quelle che sono le nostre risorse interiori, di quelli che sono i nostri limiti. La natura ci insegna proprio a conoscerci, ci insegna un sacco di cose di noi stessi e degli altri, e soprattutto ci dà l'opportunità, una volta che veramente ti ci impegni, di regalarci i frutti del nostro lavoro, quindi essere come uno specchio anche delle nostre capacità, no? delle nostre indole, per esempio, e quindi ci regala anche tante soddisfazioni. E là noi sicuramente la nostra idea è quella di accogliere queste persone. Già è successo che siano passati dal nostro progetto vari ex detenuti, e l'idea è quella di vivere insieme, tutti insieme, riscoprendo anche i ritmi fisiologici, i ritmi, no, biologici, cioè sveglia la mattina a tal ora, e la colazione, si mangia, si parla tutti insieme, c'è il momento di solitudine. Si lavora tutti insieme nel campo, sì, no? Si piantano le cose, vedere crescere le piante, tener pulito un orto, cioè sono cose che sembrano banali, ma sono di una importanza, sono sostanziali, sì, e lo posso confermare, sì, perché sono venuto, insomma, anch'io lì a trovarti, il posto è bellissimo, anzi. Voi cercate volontari, oppure vuoi dare qualche riferimento, insomma, per chi volesse qualche informazione? Certo, noi tra l'altro siamo sempre, come dire, ben contenti di accogliere volontari che in qualche maniera vogliano dedicare il loro tempo, la loro anima a questo bel progetto. E, potete scrivere sia a, potete cercare il nostro sito prima di tutto, il nostro sito è Laboratorio Solidale, quindi lo trovate in lo trovate www.laboratoriosolidale.org, e la nostra pagina Facebook anche è Laboratorio Solidale Associazione di Volontariato. E io sono Barbara Matalotti, cercatemi questi canali e sicuramente vi rispondo al tiro, come si dice in America Latina, al tiro. Ora sì, grazie Barbara. Ora sì. Grazie delle riflessioni che ci hai regalato. Noi non abbiamo più tempo, ahimè, ci staremmo a parlare per ore, però insomma speriamo, ecco, che qualcuno abbia l'occasione di venirti a trovare via via, di aiutarvi in questo progetto che è bellissimo davvero. Benissimo, ora mandiamo, grazie, un brano. Bienvenido a chi volesse partecipare, un abbraccio a tutti e grazie a voi per avermi dato l'opportunità di raccontarvi. Grazie a te. Grazie, ciao. Ciao ciao ciao ciao. Cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Thank you. cerezo se encerró la primavera. Guardo en un gesto tu abrazo, en un papel guardo el recuerdo, y de la raíz que le crece se derrama mi silencio, y de la raíz que le crece se derrama mi silencio. El cielo, el cielo en mis ojos llora, de tu risa se enamora, se alimenta el mundo entero. Bellissima la voce di Marta Gomez, il Guafa Trio. Ci fai proprio sognare oggi. Mi faccio piangere, vero? Mi faccio piangere con queste, commuovere con queste musichine. È il mio obiettivo, Insomma, si fa un volo incredibile di quasi 2.000-3.000 metri di dislivello, perché dalla Paz scendiamo nell'oriente boliviano, nel sud-est, anzi, della Bolivia, nel Chaco, una territorio guaranì. È una bella distanza. Quante ore di volo, così, per dare un'idea ai nostri radioascoltatori? Di volo, senti, sarà un'oretta e mezzo. Un'oretta da Santa Cruz alla Paz, ma poi c'è da considerare le 6 ore da Santa Cruz per raggiungere le comunità del Chaco, e insomma, quindi è un bel viaggio, ma fino a pochi anni fa ci volevano giorni per arrivare giù. Poi è stata costruita la carrettera, la strada asfaltata fino all'Argentina lungo la Panamericana, adesso almeno si riesce ad arrivare, anche se la stanno rifacendo, quindi non ti dico le condizioni. E quindi, a proposito di tutto ciò, abbiamo in collegamento da qualche parte dell'Italia, anzi proprio da Firenze, Mimmo Roselli, artista e direttore del Festival di Arte di Santa Rosa, che c'è stato meno di un mese fa proprio a Santa Rosa de Cuevo. Quello di cui ci parlavi la scorsa puntata. Quello di cui ho introdotto un po', sì, le cose settimana scorsa. Ciao Mimmo, benvenuto. Ciao. Senti, allora, qui stiamo passando un po' a parlare, siamo passati a parlare dal reinserimento sociolavorativo nei progetti del laboratorio solidale nella foresta degli ex detenuti di La Paz. Adesso però siamo in un contesto totalmente differente e parliamo di arte. Come mai? Ecco, come mai siamo arrivati a parlare di arte quando si parla del Chaco boliviano? Te probabilmente, che conosci un po' la storia, ci puoi raccontare qualcosa? Quando si parla di aiuti al terzo mondo, comunque a chi ne ha bisogno, l'arte sembra non esistere come forma d'aiuto, mentre invece, secondo la mia modesta opinione, l'arte aiuta in tanti modi a raggiungere gli obiettivi, perché prima di tutto, come tante altre cose naturalmente, ma diciamo che l'arte lo fa in maniera più piacevole della matematica, per esempio, e aiuta a far sì che il tuo cervello pensi, rifletta, si animi, e quindi diciamo affronti anche altri tipi di argomenti in maniera più cosciente, più certo. Ma come sei arrivata a questa intuizione? Te sei un veterano, insomma, della Bolivia, no? E quindi come siamo arrivati poi a... Beh, diciamo che il primo anno che arrivai in Bolivia, quando ancora esercitavo nell'ambito della medicina, ed era andato su invito di un frate francescano, Tarcisio Ciobatti, che si occupava degli aspetti sanitari di quella zona, arrivai appunto nell'85 e vidi com'era la situazione sia sociale che sanitaria, un gran disastro, però nonostante questo vidi anche che cultura è completamente inesistente, e mi ricordo proprio come se fosse ieri che dissi a questo amico frate, dissi: caro Tarcisio, non si fa salute pubblica senza cultura, perché non si arriva nell'animo della gente soltanto attraverso i messaggi di tipo razionale, bisogna che la gente si abitui a ragionare con la propria testa, e la cultura è senz'altro uno dei mezzi più efficaci. E da allora cominciamo a ragionare su questa cosa, non che lui non l'avesse già pensata questa cosa, Tarcisio è capacità di visione a tempi lunghissimi, quindi mi disse che voleva fare qualcosa, che però secondo lui bisognava ancora aspettare un po', comunque aspetta, poi lui comunque mandò delle persone guaraní a studiare musica e finalmente nel 2007 fondammo questa scuola di arte e musica che tuttora esiste e che poi ha dato luogo a questo festival e che ha, diciamo, smosso veramente tante anime. Certo, e lì il Chaco alla fine ha sempre vissuto insomma, negli ultimi decenni comunque di agricoltura, no? Cioè, Guaraní, probabilmente popolo nomade, poi si sono stanziati in quella zona tra un po' tra il Paraguay, il sud-ovest del Brasile, appunto, e il sud-est della Bolivia. E come sono arrivate, però? Ho visto strumenti come i violini, i violoncelli, che sembrano ormai essersi, di cui sembrano essersi appropriati proprio a livello di popolo, no? Sono nati nella zona, anche se la storia narra che il nostro compositore Domenico Zipoli, quando decise di lasciare l'Italia all'apice del suo successo di musicista, di lasciare l'Italia, diventare gesuita e trasferirsi nella zona che oggi è Argentina, ma che a quell'epoca era territorio guaraní, anche quello, e lui lavorò appunto per diversi anni prima di morire con gruppi di guaraní che abitavano nella zona dove oggi abitano i Guarayos e dove nacque una scuola di musica e una scuola anche un luogo dove vennero dei francesi ad insegnare come si fanno i liuti e i violini e gli strumenti musicali, e questa zona è a 1000 chilometri a nord della zona di cui stiamo parlando ora. E in questa scuola si sono preparati i nostri ragazzi guaraní e poi i violini sono arrivati anche lì, e qualcuno sta cominciando anche a imparare a farli. Ma il Chaco è un territorio abbastanza devastato sotto vari punti di vista, no? Da una parte le piantagioni di soia a perdita d'occhio, dall'altra comunque lo sfruttamento del gas naturale, che un po' tende, no, a mantenere ai margini ancora il potere decisionale di un popolo come quello guaraní. Come è stata percepita, insomma, da loro, secondo te, diciamo, tutta questa spinta anche per dedicarsi ai propri talenti in un mondo come quello dove, diciamo, si tende a voler far mandare, ecco, tutti loro a lavorare o per l'estrazione o nei campi dell'agricoltura, eccetera? Beh, certamente, diciamo che il popolo guaraní non era così lontano da questi aspetti, era solo un popolo devastato, però in qualche modo la musica, la danza, il teatro fanno parte della loro storia culturale, storia culturale religiosa direi, quindi diciamo quando siamo arrivati con queste tre scuole tutte in comunità guaraní, voglio ricordarle, Pietrasito del Monte, Palmarito e Santa Rosa de Cuevo, che dove viene fatto il festival, diciamo che l'espressione soprattutto musicale, perché per molti anni la scuola ha lavorato quasi esclusivamente come scuola di musica e da poco abbiamo cominciato anche la parte di arte visiva, e l'accettazione era abbastanza buona. Da quando un direttore di questa scuola, quello della sede di Santa Rosa de Cuevo, ha compreso quanto poteva, che potenzialità poteva avere questa cosa, la cosa è diventata addirittura esplosiva, perché i suoi rapporti con le autorità della zona, con i padri di famiglia e con con cui lui lavora nella scuola ha fatto sì che c'è un fermento a livello proprio sociale non solo della comunità dove c'è la scuola, dove c'è la sede della scuola, ma proprio in tutta la zona è un grande fermento proprio di interesse e di spinta che questa scuola diventi sempre più grande, sempre più efficace e che diventi poi un istituto riconosciuto dal governo. Bene, ce lo auguriamo. Senti, vuoi dare qualche riferimento a chi ci sta ascoltando per chi volesse saperne di più o informarsi al riguardo? Bene, grazie mille a Mimmo Roselli, complimenti per tutto il lavoro e ci sentiamo presto. Grazie. Grazie a voi, grazie. La chiamata dell'interesse. Grazie a voi, ci sentiamo presto. Ciao. Chissà chi è questo Niccolò. Mir, mir, on board the Casbah. Mir. Sex Pizzul. No, forse è Sex il muratore che sta cercando di sistemarci. Sta cercando. Ci ha sistemato l'internet in diretta. Ha fritto le lavori in corso? Davvero? In oggi che non abbiamo ospiti in radio, però ci sono comunque ospiti in stanza. Bellissimo, sembrava proprio un. Non era un pezzo Guarani quello di non proprio, avevo deciso di staccare, sì, ho detto vabbè, non mettiamo soltanto cose indigene, anche se c'ha delle sonorità, hai visto, un po' robeggianti, bravissimi Sex Pizzul che noi seguiamo da sempre. Spingiamo sempre. E io lo mando, posso mandare così ora il nostro nuovo spot? Vai, mandalo così. Bicua, municipio desde la comunidad indígena guaraní de Itarambicua, municipio de Camiri, capital petrolera de Bolivia, a nombre de Apiraiguazus, les enviamos un cordial saludo a todos los amables oyentes de Radio Condado. Che carino. Bene, siamo tornati alle sonorità indigene, hai visto? Che carino. Lo stavate boicottando, ma niente da fare. Senti, ma ci starà ascoltando qualcuno dalla Bolivia in questo ma momento? Sicuramente, guarda, sono lì tutti in streaming in mezzo al nulla, ascoltarci con la velocità dell'internet che c'è lì. Non ho alcun dubbio, guarda. Potremmo però scaricare tutte le puntate, o almeno questa, e inviargliela tramite un MP3. Questo lo farò, guarda, proprio loro di Itarambicua, che sono un bel gruppo di musica tradizionale guaraní, mi hanno mandato questo saluto, con cui abbiamo fatto lo spottino, e poi hanno detto, mandaci poi l'indirizzo del podcast. Penso che se lo ascolteranno non capiranno una mazza, perché non capiscono l'italiano, però si riconosceranno loro nello spottino e saranno felici. Esatto. Senti, ma io ho un po' di domande, perché insomma i nostri ospiti radiofonici, sarà un peccato quasi interromperli in questo loro racconto, ma tu com'è che li conosci? Li conosco perché ci sono finito nel 2012-2013 per fare una settimana, 10 giorni di un piccolo corso in una scuola di salute che si chiama Tecove Catu, proprio lì nel Chaco, una scuola di salute non solo ambientale, ma di salute del corpo, della mente e dello spirito. Quindi ci sono moduli di nutrizionismo, no, moduli di salute ambientale, di infermeria e di salute culturale. No, dovremmo farle anche qua. Sì, è proprio la visione olistica, no? della salute. È stata un'intuizione negli anni 80 proprio dell'Assemblea del Pueblo Guaraní, che ha detto abbiamo bisogno di centri per formare tecnici di salute, che non sia solo appunto salute del corpo, ma salute completa, totale. E quindi è nata questa esperienza, una scuola di una cinquantina di ragazzi ogni anno, dai 18 ai 22-23 anni, ed è totalmente, diciamo, finanziato da donazioni di associazioni, di insomma niente di governativo né di grandi finanziatori, e quindi i docenti e le docenti sono principalmente volontari. Io sono stato uno di quelli per vari anni consecutivi, facendo lezioni sul risparmio idrico, si è piantato degli alberi da frutto, perché ovviamente poi la problematica lì è sempre l'autoproduzione, l'autoreddito, per cercare almeno di diversificare la dieta, perché è una scuola di salute che però ha problemi d'acqua, ha problemi di alimentazione, quindi vai lì e dici... È insomma, difficile produrre cose nuove se manca l'acqua o se non c'è il clima... No, sono andato la prima volta un po' a conoscere la realtà, mi sono innamorato subito del luogo, delle persone, della rivoluzione guaraní di fatto, e quindi poi pian piano, cioè ogni anno abbiamo, anche con EFNA, abbiamo cominciato a sviluppare con Carmine, come viene chiamata, a sviluppare dei progetti di 2 settimane, 3 settimane, fino a un mese, per insomma portare avanti i programmi sulle medicine naturali, quindi studiando anche come loro utilizzano le medicine naturali e come aiutarli a utilizzarle al meglio, perché è un sapere che stanno perdendo, che ovviamente con l'arrivo del progresso e con questo guardare avanti stanno un po' perdendo quello che era dietro di loro. E questo è una cosa molto traumatizzante per un popolo indigeno, potrei generalizzare. sicuramente per i Guarani, la cui immagine della vita è un essere umano che cammina come un gambero, andando avanti e guardando indietro. Quindi non ti preoccupi di quello che succederà tra un anno, ma tu sai che ti stai muovendo verso il futuro, ma guardi il tuo passato, quindi gli antenati ti parlano attraverso i sogni, quindi un modo in Guarani per salutare è che cosa hai segnato stanotte o cosa ti hanno detto i tuoi antenati. Invece il progresso cosa gli dice di fare? No, noi gli abbiamo detto giratevi e guardate dritto davanti a voi, no? Questa immagine dell'uomo erectus che va dritto per la sua strada è molto nostra. E ovviamente questa piruetta loro si ritrovano alla fine a cadere in terra, perché da una parte la tradizione li spinge a credere in quello che è alla fine il loro gene, il loro DNA, però poi quello che vedono da internet, quello che gli dice anche il governo, che gli dice utilizziamo le risorse, sfruttiamo perché usciremo dalla povertà, utilizziamo la scienza e tutto ciò, li costringe, ecco, a cadere in una complessità psicologica, in una contraddizione umana che poi ha le sue ripercussioni. Quindi il colonialismo non è finito. Camisette, tu ti porti a casa qualcosa? Cioè, nel senso, adesso guardi un po' più indietro, continui a guardare avanti, un po' solo indietro. Io vado di lato, tipo se no devo infilarti in un pertugio. Sì, esatto. Hai trovato questa soluzione. La soluzione, sono un paraculo. E quindi guarda, a sinistra vedo il passato, a destra vedo il futuro. Ahimè, piacerebbe fosse il contrario. Ma per ora il futuro lo vedo a destra. Spero di cambiare visuale presto. Sì, no, non so se c'era una domanda, ma ecco. No, era curioso, no? Perché comunque noi c'ho questa colonizzazione, però si spera che chi va lì venga anche un po' contaminato in positivo invece da culture altre. Assolutamente. Secondo me questa è la nostra speranza di noi occidentali di sopravvivere, se riusciamo a farci contaminare un po' anche da altre visioni. Sì, e quello è un posto che contamina, assolutamente, nel senso che non esiste. Pochi sono le persone che ho conosciuto che siano andate là e che non siano tornate un po' cambiate o comunque con una parte del cervello che si è schiuso. Ha una visione che sicuramente, per quanto uno possa conoscere leggendolo dai libri o facendo riflessioni anche personali, però c'è un qualcosa lì, forse anche energetico, non so, che ti fa osservare le cose da tutto un altro punto di vista. Non posso farne a meno. Senti, e nel progetto di Barbara invece tu proprio sei stato fisicamente? Sono stato la prima volta proprio nel carcere un paio di giorni, quindi un po' ad aiutare, insomma, quello che c'era da fare nella stanza educativa dei bambini. Sono rimasto impressionato, c'era già stato un mio amico a fare le fotografie, Pietro Paolini, che ha fatto un bel servizio diversi anni fa. Lui mi ha passato il contatto proprio di Barbara, quindi sono andato a trovarla, sono stato un po' alla pasqua con lei, l'ho aiutata nell'attività fuori recinto col campo che faceva con i bambini a Natale, e lì ho avuto modo anche lì di vedere tutta un'altra realtà. Cioè, non avevo mai visto un carcere in Italia, il primo carcere che ho visto è stato là, ed è particolare perché vedere un quartiere chiuso dove la gente dentro si autogestisce la vita comprando le celle, cioè affittando le celle al mese, potendo lavorare, ci sono i negozietti, ci sono il ristorantino, c'è cioè quello che fa il caffè, ma per me insomma mi ha dato in tutte le contraddizioni del posto, perché poi ci stanno con i figli, ci stanno con le madri. Sì, che non so se sia meglio o peggio di qua, nel senso che per noi il carcere, insomma, io non è che sono esperta, ma di carcere ne ho visti tanti. No, un po' esperta sei, Dan. Voglio dire, per noi il concetto è proprio la privazione del legame affettivo, il pensiero che si ricreino un microcosmo loro. Boh, da un lato mi sembra quasi fregate meglio rispetto al carcere nostro. Sì. È una riflessione che va fatta, molto interessante, perché inizialmente anch'io, sentendo parlare all'inizio dell'intervista, no, dei figli dei detenuti che appunto crescono all'interno del carcere, cioè è un pensiero aberrante, proprio fa veramente effetto. Però poi sentendo parlare anche di questa dinamica, di questa vitalità, di questo carcere quartiere, sia una sorta di destrutturazione del carcere stesso in qualche modo, quindi la questione è molto aperta e potrebbe svilupparsi in uno superamento del carcere stesso, poi come chiaramente affrontando e provando a superare tutti i problemi che ci stanno, no? Però comunque ci proietta verso un sì, altre soluzioni. Un immaginario differente. Altre comunque soluzioni. Interessante, molto interessante. È una riflessione, perché ad esempio nelle carceri nostre non viene mai presa in carico la famiglia fuori. Non dico che portarla in carcere sia una reale presa in carico, sia la soluzione ottimale, però mi dà modo di pensare che da altre parti del mondo c'è almeno un'idea che, appunto, se questa famiglia gli togli la fonte primaria, gli devi trovare una soluzione, e quindi comunque si mantiene il nucleo familiare. Boh, una riflessione, insomma, cioè, sì, la teniamo lì. C'è da dire, se posso aggiungere due o tre cosette, giusto, no? Per chiudere con degli spunti che possono far continuare a riflettere. Ah, prima di tutto, ovviamente, le condizioni socio-economiche lì sono molto diverse, e lì se un ragazzo che è sposato con figli viene trovato un chilo di foglie di coca che sta cercando di passare la frontiera per andare in Perù e per guadagnarsi qualcosa, gli danno 1, 2, 3 anni di carcere, oppure lo mettono dentro preventivamente, lui dà dei soldi all'avvocato, l'avvocato se ne scappa, lui finisce in carcere, rimane lì 3-4 anni e la moglie e i figli, l'alternativa è che vadano per la strada, quindi sicuramente rientrando poi in un circolo molto vizioso. Quindi non c'è sostegno a chi rimane fuori, neanche lì. Per questo poi, per vari problemi anche economici del governo di tanti anni fa, che non riusciva a sopperire alle problematiche all'interno del carcere, hanno detto: sapete che, autogestite, va là, vi togliamo la polizia, affittate le celle, vi lavorate, state con i vostri familiari, i vostri cari, e si è un po' tolta, si è un po' lavato le mani, perché poi non è che fanno molto per risolvere il problema in profondità. Un modo magari dello Stato per lavarsene le mani. Esatto, è molto delicata la questione. Sicuramente non c'è quella carica ormonale, no, che immagino ci sia nelle carceri qua, in cui lontani dalla famiglia e dai figli ti senti veramente in un vicolo cieco. Lì è una Bolivia in piccolo, un microcosmo nel bene e nel male, dove c'è un po' di tutto. Poi c'è ovviamente le zone di quel posto che sono pessime, quindi dove chi non c'ha niente neanche per pagarsi una cella è buttato a dormire in terra su un materasso. I poveri sono poveri anche in carcere. Esatto, c'è una striscia tra le due mura dove mandano le persone, i detenuti che hanno fatto qualche cosa di sbagliato, li buttano lì in delle catapecchie. Il carcere nel carcere. Sì, sì, c'è il carcere del carcere, esattamente. Però c'è anche il campo di calcetto, è tutto ben dipinto, quindi c'è la chiesa, c'è tutto quello che si può immaginare in un quartiere di città. Poi ovviamente ce ne sarebbe da dire tante. Sicuramente il lavoro che è lì non è soltanto di provare a risolvere o a migliorare la vita dei detenuti e dei bambini dandogli altre possibilità e dandogli soprattutto amore, ma è anche quello di aiutarli nel momento in cui escono. Quindi poi il progetto di casa solidaria nella selva, nella foresta, è un esempio di come si cerca di aiutare sia da una parte sia dall'altra, ovviamente, no? Vabbè, grazie intanto Camisetta per questa fotografia chiara e limpida che abbiamo davanti. Direi mandiamo un pezzaccio e poi facciamo la nostra terza telefonata. Sì, oggi è così, chiamiamo, ci piace chiamare tutto il mondo, tanto paga fritto le telefonate, gli scatti alla risposta. Paga Wombat. Llena todavía de voz. Quiero salir de este silencioso infierno. Quiero salir, jamás volver a este silencioso infierno. No importa nada alrededor. aparece, que ese gran monstruo lo hago yo. No importa nada, no importa nada alrededor. Hay un gran monstruo entre los dos. Hasta parece que este gran monstruo lo hago yo. Melancolía, hoy te escribo una canción. Suponiendo las ruinas que aquel monstruo dejó. Si volverías junto a mí, intentaría cuidarte. Volverías a vivir, creo que podría amarte. No importa nada, no importa nada alrededor. Hay un gran monstruo entre los dos. Hasta parece que este gran monstruo lo hago yo. No importa nada, no importa nada alrededor. Hay un gran monstruo entre los dos. Parece que este gran monstruo lo hago yo. Sentiamo stiappone questo blues. Oh, ma che pezzacci ci spari oggi, sei tornato veramente carichissimo, Drio, cosa ne pensi? Scusate, la settimana scorsa sei l'esperto musicale. Abbiamo fatto live Gimme the Power. Minchino a queste, sotto a queste scelte, mix, no? A questa playlist. Bene. Il live però dovremmo farlo più spesso, Il live dai. Sì, adesso si va a prendere una chitarra, si fa fare a John the Olivi Culture. Oh, John, un bel live, cosa potresti fare? Ma via. No, John Roventini, chiamato John Roventini. Bene, si continua con la nostra scarica di telefonate dal mondo. Oggi andiamo molto più a nord di dove siamo noi. Qua da Frittole, tra Frittole e Genova corrono centinaia di chilometri, ma fino a poco tempo fa, con la persona con cui stiamo per chiacchierare, ero proprio là in Bolivia, a più di 10.000 chilometri. Infatti è con noi Martino Terrone. Ciao a tutti, ciao. Ciao Martino. Ciao. Sei di casa praticamente in radio, no? Sì. Non vedo l'ora di dirvi un po' di cose che abbiamo condiviso giù in Bolivia. Bene, dai. Non troppe però, mi raccomando. No, spiego un pochino sono come quelle, mai... Esatto, sono quelle ufficiali. Allora, abbiamo chiuso un po' una triangolazione perché siamo partiti dalla PAS a parlare insomma del carcere, delle carceri e del reinserimento socio-lavorativo in campagna, quindi nella vita rurale. Siamo arrivati poi nel Chaco a spiegare come l'alternativa, una delle tante alternative però a una devastazione sociale sia proprio l'arte, il fare arte nelle sue espressioni artistiche, musicali, indigene. E adesso invece chiudiamo questo triangolo proprio anche fisico, La Paz, Camiri, Cochabamba, perché Cochabamba ovviamente un posto che ricorda molte persone per una cosa in particolare, un elemento fondamentale come l'acqua. E come mai? Come mai? Perché abbiamo avviato un programma, un progetto proprio a Villa Villa, vicino a 4 ore da Cochabamba, insieme a Geologia Senza Frontiere, per permettere all'acqua dalle sorgenti di raggiungere i campi di mais e per stabilizzare un po' dei versanti che proprio a causa dell'erosione idrica stavano, cioè continuano a venire giù come limoni, come si dice. E Martino Terrone, insomma, è uno dei protagonisti di questa avventura. Vero Martino? Sì, allora, questo progetto che è stato finanziato dall'8 per mille della Chiesa Valdese si chiama Search. Ancora adesso che non so esattamente come pronunciarlo, se Girce, Gerce, però È l'amore per sostanzialmente gli vuol acronimi, dire, questo. esatto, siamo innamorati degli acronimi e significa gestione integrale del sistema di irrigazione nella comunità di Wanyoma. Wanyoma è questo villaggio di una ventina di famiglie. Noi abbiamo fatto questo progetto per 12 e queste 12 famiglie da parte di Aquifera Onlus riceveranno questo acquedotto, anzi ci sono delle foto che fanno vedere che praticamente i serbatoi che raccoglieranno l'acqua sono praticamente finiti, quindi loro adesso Se lo stanno costruendo, insomma. potranno irrigare per 2 volte l'anno, che è già un buonissimo risultato. Dall'altra parte del fiume, Geologia Senza Frontiere si sta invece occupando della realizzazione di muretti a secco. Tema a me caro per quanto riguarda i muretti a secco, per quanto riguarda la mitigazione dell'erosione. Siamo consapevoli tutti che l'erosione è un fenomeno che non si può arrestare dall'oggi al domani, ma al massimo mitigare. Abbiamo pensato, perché non unire anche il discorso della captazione idrica da un'altra fonte? Ovvero, realizziamo questi muretti a secco più a monte, realizziamo un sistema di sbarramento per raccogliere l'acqua che è definita acqua di ruscellamento, ovvero l'acqua che precipita sul suolo e ruscella, corre lungo il versante. Noi fermiamo l'erosione, però intanto catturiamo quest'acqua che poi va a finire in altre cisterne e da qui, attraverso un sistema di irrigazione goccia a goccia, irriga i campi che abbiamo creato con le fasce, con i muretti a secco. Quindi sempre nell'ottica di prendere la risorsa dove c'è e minimizzare il consumo di acqua. Questo è un po' l'obiettivo di questo progetto. Quindi no, non si parla di estrattivismo in questo caso. Non si tratta esatto, di estrattivismo, anche se poi parlando con i tecnici di Ainisuyu è un ente governativo che è nato 21 anni fa e in Quechua significa territorio della reciprocità. Dicevo, questi tecnici parlando stavano commentando le leggi attualmente in vigore che non scorporano il discorso dell'estrattivismo con il discorso dell'acqua. Quindi questo può anche essere, da questo punto di vista, pericoloso perché ancora l'acqua non è vista come una risorsa da tutelare, ma soltanto come una risorsa da sfruttare. Ci sono piccoli, timidi passi in avanti perché adesso il municipio, su volontà popolare, sta cercando di fare delle leggi per la protezione delle zone di ricarica idrica. Quindi questo significa anche riforestare il territorio e significa anche iniziare a pensare il territorio in un'ottica diversa rispetto a quella che è stata da 50 anni fa fino ad adesso. Anche perché vogliamo un po' dare un'immagine di quello che è la situazione lì in quelle montagne a 3.000 metri d'altezza, no? Chiudendo gli occhi ricordiamo montagne brulle, solcate veramente da canyon più o meno profondi, da erosioni di tutti i tipi, senza neanche un albero, a parte qualche isola di riforestazione da pino e eucalipto messa qua e là, e quindi ovviamente una situazione in cui anche l'agricoltura contadina ha poca possibilità di proliferare, visto che appunto non riescono a portare l'acqua dalla sorgente fino all'orto, a meno che non lo portino a mano o con i muli, o a meno che non si riesca a mettere delle tubazioni per più di 1 chilometro, come è stato fatto in questo caso, per avvicinarli. E poi in parallelo a questo è stato fatto anche un po' un programma di riunioni proprio sul diritto all'acqua e sulle tematiche anche un po' più politiche, no? Sì, assolutamente. I contadini erano molto contenti, hanno fatto il rituale in onore a Pachamama e insomma iniziavano un po' a capire, no? Tutti i fenomeni di erosione, di infiltrazione, tutti i fenomeni geologici che in effetti sono molto utili se come loro poi inizieranno un percorso di tutela del territorio. Quindi è tra l'altro una cosa che come Geologia Senza Frontiere, immagino anche Acquifera, siano proprio un cardine dell'associazione, quello di fare sì cooperazione ma anche portare insieme un messaggio appunto di tutela del territorio, di insomma un po' Esatto, questo è il tema esatto. centrale. Bene, bene, bene. Quindi, insomma, vuoi dare dei riferimenti anche per il progetto di, o per Geologia Senza Frontiere, per chi volesse, insomma, interessarsi o anche, insomma, partecipare? Sì, noi abbiamo un sito www.gss.it, abbiamo una pagina Facebook, un canale YouTube. Generalmente facciamo incontri in tutta Italia, soprattutto Genova e Roma, perché i due gruppi più forti sono in queste due località. Bene, ottimo. Giusto tra poco ci sarà il SUP di Genova, che è un evento abbastanza importante per quanto riguarda la comunità genovese, in cui si mettono insomma in mostra i prodotti tipici di tutto il mondo, in particolar modo del Medio Oriente, però sarà l'occasione anche per descrivere questo bel progetto che ci appassiona, il progetto HIRCH. Bene, bene, grazie mille Martino. In bocca al Grazie lupo e bene, ci sentiamo presto. a voi. Ciao Martino, Grazie. grazie. Ciao, grazie a voi, ciao, buona giornata. Grazie Buona mille. continuazione. Perché c'è da dire una cosa, tanto rimetto un po' Sottofondo, il di tappetino. tappero. Quei posti lì, e soprattutto nella zona andina, tu noti proprio come siamo passati da tutti i tipi di estrattivismo che siano stati classificati ad oggi. E Ma quindi voglio spiegare adesso meglio. sono molto diversi da quello che potenzialmente erano. Sono molto molto diversi e insomma, adesso ovviamente col passare del tempo sono diventati anche sempre più impattanti e devastanti. Perché secondo almeno la classificazione di Eduardo Gudinas, che ha scritto un libro, un bellissimo libro tecnico sull'estrattivismi, si chiama Extractivismos, lo consiglio, Ecologia, Economia e Politica di un modo di intendere il desarrollo e la naturaleza. Per chi sa capire lo spagnolo, chissà se ad affritto riusciremo a tradurre un giorno in italiano, ma sono 400 pagine, quindi non credo. Comunque sia, faremo una sintesi. E lui comincia proprio a analizzare i vari tipi di generazione, le generazioni dell'estrattivismo, quindi parlando di un estrattivismo di prima generazione, che è il primo che è avvenuto ovviamente nel primo secolo della conquista, insomma, quindi tra il 1005 e il 1006, in cui le risorse venivano ottenute solamente con forza umana e naturale, c'erano ovviamente risorse quasi infinite, per cui c'era davvero l'Eldorado. In un certo senso. Questo tipo di estrattivismo è stato poi soppiantato da quello di seconda generazione, più o meno un secolo dopo, in cui è aumentato ovviamente il volume delle risorse grazie a applicazioni tecnologiche, alle macchine a vapore, ai motori a combustione. Sì, ci sono stati anche i primi pozzi per estrazione petrolifera, si parla quindi della metà del 1800, e dopo poco è arrivata l'estrattivismo di terza generazione, quindi le coltivazioni transgeniche, l'uso di esplosivi e le piattaforme petrolifere, fino ad arrivare adesso a quello che è l'estrattivismo di quarta generazione, in cui si stanno esaurendo i giacimenti storici e quindi si deve applicare delle tecnologie così avanzate, così anche devastanti, che il danno alla natura è esponenziale rispetto ai primi due tipi di estrattivismo, per esempio il fracking, no? L'utilizzare proprio per tirare su, cioè per aprire le vie allo sfruttamento petrolifero, ovviamente tu devi bombardare e aprire faglie all'interno della terra. Quindi praticamente col passare del tempo di queste generazioni, cosa succede? Che si deteriora il bilancio tra le risorse ottenute e tutta quella che è l'energia, l'acqua e i materiali impiegati per l'estrazione. Quindi si è passati da una prima generazione estrattivismo in cui tu impiegavi uno come impresa e ottenevi 50. Piano piano questa proporzione si è abbassata a livelli spaventosi e adesso siamo quasi a livelli di 1 a 1 o 2 a 1, cioè tu impieghi 1 a 2, scusate, tu impieghi uno, va bene, tu usi per esempio un barile di petrolio per ottenerne due. E questa è una delle cose più allucinanti, assurdo, dal punto di vista, parlando dell'estrattivismo proprio delle risorse naturali, poi ovviamente estrattivismi c'è ovviamente anche il turismo a Firenze, è una forma di estrattivismo, però parlando lì di quelle delle risorse naturali. Quindi adesso si vede come proprio il tentativo di convincere la popolazione, no? che questo progresso tecnologico aiuti allo sviluppo di un popolo, ecco, ovviamente poi è soppiantato da quello che è l'energia utilizzata per estrarre queste risorse, che è così alta rispetto a quelle, alle risorse ottenute, che lo si vede in termini proprio di devastazione ambientale. E questa è una riflessione che andrebbe fatta, perché praticamente un'impresa, per riuscire a mantenere il capitale che ha, deve continuare a investire in estrazione per avere uno a uno, quasi, solo per mantenere la propria esistenza. È un loop devastante, non conosco altri termini. Devastante mi sembra che renda appieno l'idea, insomma. Sì. È un loop che dimostra quello che è la contraddizione in seno al capitalismo, che è appunto quella di avere un sistema economico che prevede, per mantenersi in vita, una continua crescita, un continuo sviluppo, un continuo sfruttamento di risorse che, naturali e umane, che invece sono finite. E quindi l'agricoltura contadina, e quindi dobbiamo svilupparci diversamente. Tutto sì. Ciò ci porta alla contadina. Valorizzazione dell'agricoltura contadina, che insomma, poi arriviamo lì, perché è di quello che ci vogliamo occupare, che no? È di quella che continua poi a sfamare, cioè i Guarani, i Quechua, gli Aymara, cioè, principalmente sono sfamati proprio da quello che dai cavoli e dalle patate che comprano nelle zone lì, non è che vanno al supermercato. No, quindi il problema è che vengono poi sfruttati totalmente, o che non riescono poi a arrivare alla fine dell'anno per le problematiche ambientali, le problematiche politiche, eccetera. Ma già l'agricoltura contadina, soprattutto in Bolivia, è fondamentale. Il problema è che non ha nessun tipo di uscita o di sostenibilità per chi la fa. Cioè producono quinoa per venderla all'esterno, per farla arrivare qua in Europa. E poi la chia uguale, sì, il mais e la soia producono, la Bolivia è il secondo o terzo paese produttore di soia, il 100% della soia la mandano in Cina, lo stesso per il mais, per cui sono queste contraddizioni, insomma, che ormai sono molto evidenti. Però la smetterei con i pippones, no, lo spippones. Una canzoncina. Mandiamo la canzoncina. Ninguna chavala tiene dueño. Questa è. Non la traduciamo, però è. Nessuna signorina, nessuna donna ha un padrone. Questa è un'altra canzone boliviana, no? Nell'evoluzione della dinamica di genere, anche la musica. Hay que follarse a las mentes. Luego con las mentes. No, sono spagnoli loro, non sono. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón de cojón. No conocía ninguna en ninguna relación. Represento la mentalidad sueca con beca. Completamente loco por pecar. No me perteneces, no te pertenezco. Solo cuando aparezco y con mi luz te busco. Te dije yo te haré soñar y soñar está bien. Pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al 100%. No sé. Pues déjame soñar solo mi drama. Y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas. Después de aquella bronca cariño se escribe con K. Y fue que aquella noche la volvimos a montar como dos jóvenes y empezó a llover. Conozco un piso franco y nos tuvimos que mover. Mi habitación era un jardín botánico. Y el amor no es matemático, pero hay caricias calculadas y hay versos calculados. Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro. Afuera la lluvia desafinaba y dentro otra lluvia, pero de confeti en tu coño estallaba. Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara? Cuando me escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia. Pero tú estás mejor en mi memoria. En sí estáis mejor entre el público y real. Como esta historia, nuestra línea divisoria es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Ninguna mujer tiene dueño. Bien, sigo esperando el latido del teléfono. Todo mi honor en torno a un tono que no sonó. Da igual, llamaron otras y todas llenas de cosas buenas. Pude amarlas sin problemas. Vivo con el alma, el cielo es mi patria y Dios es mi padre. Escribiendo rap alcanzo calma. Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Tú quieres posar desnuda y yo te retrato, pero no hay verso sensato para tu hermosura. Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará. Todo está en jugar y sudar. Por eso soy adicto al amor platónico y al placer de la nostalgia cuando estoy solito. Después de todo sé que nada es permanente y que al impaciente se le olvida la miel del presente. Nada es tan urgente, nena, nada tan importante. Nada merece más la pena que el instante que tenemos delante. Y el siguiente y la oportunidad de hacerlo diferente. Es evidente que ni yo soy Kimi, ni tú eres Valle. Es normal que esto falle, a mí me gusta la calle. A ti te gusta el detalle, joder, no quiero rayarte. Yo tengo esto, lo otro y poco más y me sobra pa' darte. También tengo un cerebro cascado y un gatillo atascado. Y así ni me aburro ni me enfado. Vengo salido del abismo. Entiende que me cueste volver a creer en mí mismo. Es la antigua postura ambigua del hombre que conoce la belleza y sus redes, el éxito y las mieles. Una mujer infiel yo sé que huye de una cárcel. Otra película es cuando el infiel es él. No sé, con las personas es difícil. Machos y hembras, blancos y negros. Yo vine a ser gris. Bien, como ya sabrás, rimo palabras y eso es todo. Coño, ahórrate ese puto protocolo. Ven si tienes planes o tetas como flanes. Ven si aún no sabes cuánto vales. Ven si él te subestima. Podemos enseñarle a llorar. Soy un mártir, no un santo. Y por supuesto te quiero follar. Bien, se acabó el verano. Todo ha sido un juego. Espero que os hayáis divertido y que entendáis que si alguna vez me creí el mejor fue porque ella lo dijo. Y da igual lo que digáis en rap. Si das, fueron las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Quizás fueron las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Como son los huevos de oro que he de poner para que te enteres que me tienes en estéreo, nene, y pienso en él. Yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar, disimular. Bien, mala suerte de ser bichis. Dios bendiga a la familia Ibarra. Mala suerte W, hasta que la muerte nos separe. Mala suerte FV, hasta bichis. Que la muerte nos separe. Mala suerte os quiere y os admira. Che bien, ninguna chavala tiene dueño, mentre facciamo sentire uno spottino incredibile, mentre... Il preferito vai, di Drio. Sì, vai, vai, sparalo. Bă, ce-i cu purcheria asta, mă? Bună ziua, doamnelor și domnilor, poate nu știați, dar acum, orice timp de vreme, puteți asculta, chiar dacă sunteți mici, însurați sau bunici, cele mai bune transmisii și cea mai marfă muzică pe Radio Wombat. Schimbați canalul! E sub raspri la izvoră, la la la la la. Este la stenda ca idora, la la la la la la. Lo mettiamo solo per la musica, è bellissimo. Scumbazzi canalu. ma sembra Radio Bomba. Bergamasco, non sembra rumeno. Forse è un po' simile all'accento, all'accento mio, eh. Forse è per quello che mi piace così tanto. Però quello bergamasco con le mucche e i sonagli rimane per me lo sputtino numero uno. Vero, da un po' che non lo mettiamo, almeno io da un po' che non lo sento. Un po' che non lo senti, messo. Forse camisetta. Camisetta. Senti, camisetta, intanto complimenti per questa super puntatona densa e ricca di contenuti, cioè veramente... Densa e ricca di sudore. E di sudore, sto sciogliendo. Sì, infatti, io vedo affaticato e mi immagino se il tempo continua così cosa sarà fra un mese. Ma un ventilatorino a frittole, cioè... Proventini, cioè, okay. Lo procureremo assolutamente, ma i nostri ospiti ti fanno accenno che si può fare, si può fare. Si può andare. Il notaio dice che si può fare. No, è stata sì, è intensa, perché poi quando si parla di queste problematiche così enormi, globali, passate dal carcere all'arte, all'estrattivismo, così in un'ora e mezzo, quindi è peggio di una partita di una finale mondiale, sì, direbbe il mulo. Queste sono le metafore del mulo che ci manca e che mulo non chiameremo, però, o lo chiamiamo così. No, lo chiameremo. No, se vuoi provare a chiamarlo, o adesso mai più. Adesso mai. No, però devo dire, è vero che abbiamo spaziato, però un po' tutto ci riporta comunque anche a un nucleo centrale, no? Che se ribadiamo un pochino l'estrattivismo o tutta una serie di problematiche, anche quello, insomma. L'economia, l'agroecologia, il coltivare il piccolo produttore, l'autosufficienza, l'autoproduzione, cioè lì è lì, cioè, assolutamente il nucleo, lì. Secondo me è lì, o almeno tu ce lo puoi dire meglio, ci sei stato. Non mi ricordo se ne ho parlato la volta scorsa, però per dire, no, ora abbiamo analizzato i problemi e direi che ci sappiamo fare nell'analizzare il problema, queste problematiche, e proponiamo anche delle soluzioni, e lì ci sono diverse spunti che possono arrivare, uno dei quali per esempio proprio lì nel municipio di Vila Vila è la recentissima legge, sì, ne ho parlato la volta scorsa, sì, ma lo ridico, sì. Con la quale si obbliga le scuole elementari in area rurale a comprare gli alimenti per i bambini, la colazione e il pranzo, solo ed esclusivamente dall'agricoltura locale. Queste sono quelle, no, piccole vittorie che la popolazione ha ottenuto, la popolazione rurale delle comunità, queste famiglie con cui abbiamo lavorato, a forza di unirsi e formare piccoli gruppi, diciamo sindacali, anche se ha una connotazione differente da come lo intendiamo qui, per andare al comune e dire: a noi si produce, i nostri figli potrebbero mangiare anche a scuola quello che produciamo. In questo modo si è creato un circolo virtuoso di acquisto dei prodotti, quindi dell'agricoltura contadina locale. Poi sono piccole esperienze, sono cose che non arrivano a livello nazionale per ora, però appunto uno viaggiando e conoscendo queste realtà, poi essendoci lì autonomie indigene, cioè i municipi hanno abbastanza libertà di manovra fino a un certo punto, non hanno ancora risorse economiche abbastanti sufficienti ad attuare certi cambi in modo rigoroso. Però la visione va molto in quella direzione, alcuni cominciano a convincersi dell'importanza della riforestazione, della protezione delle aree di ricarica, degli acquiferi, insomma cose che in realtà sono abbastanza, insomma, all'avanguardia. In un posto dove, cioè prima di iniziare un lavoro come una captazione idrica, fanno l'inaugurazione per chiedere alla Pachamama di aiutarci, no? A poter prendere un po' della sua acqua, quindi anche lì, come si diceva prima, la contraddizione del popolo indigeno, no? In cui da una parte devono pensare con la mente nostra, scientifica, occidentale, di sviluppo come lo intendiamo noi, e dall'altra invece hanno tutte le tradizioni che gli fanno vedere il mondo in un altro modo. Allo stesso modo c'è questa contraddizione tra i modi di produrre, tra anche tra i modi di affrontare il concetto di natura e di appropriarsene. Quindi da una parte è Pachamama, quindi è qualcosa di divino, di sacro, e dall'altra invece sono un terreno da sfruttare e da utilizzare in qualunque modo. Insomma, sono queste contraddizioni, all'interno di queste contraddizioni si sviluppano poi tutti i ragionamenti, secondo me, per poter parlare non solo di loro ma anche di noi, no? Queste contraddizioni le trovo anche un po' positive, nel senso, io ho un bisogno ma tutti questi rituali, c'è cioè una cosa che noi abbiamo perso, però che significano, io comunque ho un rispetto, no, per la dea madre natura, per la terra, per quello che mi circonda. Quindi mantenere, cioè, queste tradizioni e questi rituali secondo me è di fondamentale importanza, anche se comunque bisogna magari volgere lo sguardo anche avanti, perché invece purtroppo troppe volte noi li abbiamo completamente eliminati e perdi anche il rispetto, perché perdi il collegamento veramente con la terra e con altro. Sì, sì, secondo me la risposta è più che guardare un po' indietro, un po' in avanti, insomma, iniziare a guardare un po' in basso, in alto, no? Proprio un cambiamento di cui si era parlato già un'altra volta, nel senso che non serve a nulla questa contraddizione se preghi la Pachamama e poi butti sacchetti di plastica dall'autobus, no? Come vedi spesso fare lì, e ogni volta mi devo trattenere dall'iniziare a infamare dall'alto della mia saccenza ecologista europea, mi devo trattenere perché mi rendo conto di essere un altro contesto e che non potrò mai insegnare incazzandomi, no? A non tirare un sacchetto qui se vedo uno butta una roba in terra, magari mi incazzo e lui ci rimane male e non lo fa la seconda volta. Lì non viene percepita magari questa cosa. Anzi, dice te, straniero, no? Sei venuto, ci hai sfruttato in ogni modo, vieni qui e mi dici non buttare la cartaccia in terra, ma stai buono. E in senso, e come fai a dirgli, no? Che si sbagliano. Però si potrebbe risolvere questa contraddizione tra l'amore per la divinità della natura e un poco rispetto a volte per la natura materiale. Forse, ecco, riportando più che questa contraddizione avanti e indietro, invece a una dinamica più rendersi conto di dov'è che poggiamo la terra, tutti i piedi, tutti quanti, allora forse lì la divinità rimane il posto in cui vivi, per cui avresti rispetto semplicemente per quello che calpesti. C'è da lavorarci, però qua, sia poi qua che i campi filosofici. Sì, sì, no. Perché anche noi non è che siamo proprio messi benissimo. No, no, anzi, ma infatti andare lì ti fa comprendere ancora meglio quello che hanno assorbito da noi, quindi un po' di quello che noi abbiamo lasciato lì, insomma, spiega tante cose, dei nostri errori proprio, di quello che dici, che bello che da noi non si butta magari più le cartacce in terra, però poi ti rendi conto che giustifichiamo tante altre robe. Tutto quello che succede in Bolivia è giustificato dai nostri ritmi di vita. Infatti ci vorrebbe una contaminazione, tra l'altro, però nelle buone prassi, perché invece alle volte la contaminazione avviene più sulle cattive prassi. E poi sarebbe bellissimo fare un decalogo informativo per capire che certe cose sono possibili sulle leggi normative che ci sono anche in altri paesi che non sia l'Italia, perché abbiamo visto anche in Venezuela ci sono delle leggi che poi, per carità, magari non vengono o non riescono a essere attuate ed applicate, che però sono veramente molto avanti rispetto a quelle che abbiamo, e sarebbe bellissimo poterle mappare e fare un decalogo, così perché si sappia che esistano e magari uno pensi, ah beh, però se l'hanno fatto lì posso utilizzarlo anch'io, posso spingere affinché arrivi anche da me, come spunto riflessivo. Bellissimo, non lo so. Sì. Io direi che se hai altre due considerazioni, bene, sennò poi mandiamo un pezzaccio e insomma ci ricolleghiamo con la madre terra fiorentina. Esatto, abbiamo un collegamento prezioso. Sì, quello è, per esempio, ecco, io consiglierei a Dino il contadino di fare un salto con noi, glielo consiglierò, vediamo, anzi invitalo, perché sì, penso che si divertirebbe tanto a insegnare e imparare, perché poi è questa l'ultima riflessione che posso fare, è questa, cioè eliminare la monocultura della mente, quindi il colonialismo dalle nostre menti, nasce quando uno va lì e non pensa di essere colui che porta a insegnare qualcosa o colui che va lì con un bagaglio di esperienze da lasciare lì e tornarsene più leggero. No, cioè uno se lo fa così lo fa, ma si perde tanto, troppo, e torna non arricchito rispetto a prima. Invece la Bolivia e tutto il Sud America, dai, tutto il mondo, insomma, soprattutto quando sei in ambito contadino, in ambito rurale, è un luogo di insegnanzas, di insegnamenti, e loro ne sanno a pacchi. Una cosa bellissima, quando sono partita per il servizio civile in Brasile anni ormai or sono, era che ci avevamo fatto il lavaggio del cervello i nostri referenti, giustamente, sul voi andate là e siete in formazione, quindi voi andate lì e imparate, punto. Quindi voi siete lì per imparare da loro.

Per contenta egna con me la sgaffo i bore? No, pede mia, go di ascoltare radio contato i due mesa. Del bu. Se te pede mia ascoltare i due mesa, mercoledì, te pede ascoltare la sua posca dal venerdì o il sabato. Beh, la storia è domenica? È domenica che è solo l'Atalanta. E con questo che è il mio spottino preferito in diretta da Bergamo. Abbiamo qua qualcuno che non si occupa di mucche, ma che come ben sappiamo si occupa di campi. Dino, ci sei? Certo, ci sono. Sì. Come va? Ma Dino, non è abbastanza bene, dai, insomma, Camicia, wow. Il nostro buon Camicia si è fatto una sudata, ha parlato praticamente finora raccontandoci di Bolivia, campi boliviani, certo. Culture boliviane. Ci senti? Ah. Vi ho perso a un certo punto. Ma è che stai... A parlare finora di... Bolivia. Ah, di Bolivia, ok. Ma tu sei mai stato in Bolivia, Dino? No. Ma io sono uscito poi volte dal campo, Dal campo, ma a Prato sei mai stato? Sì, a Prato sì. Fino a Prato, sì. Bolivia è un po' più là. Quindi... Ma da campo o da campi? Non ho capito. Anche da campi, sì. E anche a campi insomma, ci ho tanto, la verità. Comunque guarda, sono 10... Un saluto a tutti i campigiani all'ascolto. Esatto. Sono 10 ore d'aereo e cioè, sono campi anche in Bolivia. Sì, no, ricorda un po', la Bolivia ricorda un po' campi di sé. Assolutamente, in certe zone, assolutamente. Cioè... Senti Dino, ma che aria tira nel campo oggi? Tira caldo finalmente. Ecco, lamentiamoci ora, eh. Infatti no, ho detto finalmente, ora già sento, dice, ma ora fa caldo, dai, stai fino all'altro ieri con la porta, mi dice, madonna, non vi è mai caldo, ora è arrivato. Te lo pigli. È arrivato l'esplosione di tutto, perché ora era piovuto tanto, acqua e sole, erba a non finire, quindi c'è da tagliare tanta erba, da diserbagna cosa, tutte le pare. E anche le piante comunque stanno crescendo a vista d'occhio, le zucchine sono raddoppiate e tutto, insomma, sta crescendo veramente tutto. Quindi finalmente arrivano le zucchine? Sì, vabbè, perché ce l'aveva in serra, ci so già da un pochino, però ora sì, poco dovrebbe essere, insomma. Poi normalmente per i giorni di San Giovanni è proprio la produzione massima di zucchine, insomma, è proprio il periodo cru, insomma. Quindi sì, e in generale ora insomma c'è da stare dietro, da cominciare a rincalzare le piante, appunto come dicevo, a levare l'erba, agli, cipolle, a cominciare a zappare, insomma, a fare tutti questi lavori qui e anche a lavorare, perché visto che piovevo tanto questo periodo è anche il tempo di lavorare i terreni che non sono stati ancora lavorati, anche perché ora la terra è ottima perché è ancora morbida ma si sta asciugando, come si dice in termotecnico, si è abbucciata, nel senso che fa quella crosta sopra chiara, però poi se scavi sotto è ancora un po' umida. E quindi la terra si scioglie, diventa fine e quindi ora è il momento buono, perché no, tante volte quando è troppo bagnato si vengono quei moduli di terra durissimi, diventano pietre con il caldo, ora invece ancora è il tempo buono per fare una bella lavorazione di terreno, insomma viene, come si dice, prima parecchio sciolto, fine. Quindi ora è da approfittarne, insomma, ora è... il momento di goduria di contadina, anche nello zappare uno gode se la terra insomma viene bene, morbida, insomma, quindi vai di rilancio, zappa. Rilancio sì per la gara di zappa, quindi anzi lancio pubblicamente la sfida per il campionato mondiale di zappatura. Quindi chi vuole partecipare o sfidare Dino il contadino, che scriva a radiocontado@insimera.net. Esatto, sì, poi si decidono le categorie che fare, se velocità, precisione, potenza. E anche, equilibrio. Io ho visto delle scene di qualche contadino boliviano in equilibrio su dei massi a tirare delle piccate in terra, della roba. Con loro dovresti fare un confronto. Posto dove vai, poi tecnica e trovi, perché appunto le fosse trovano, cioè usano zappe molto corte, dove appunto sono tutti ricurvi a zappare, c'è chi invece usa quelle più lunghe, quelle più strette, più larghe, insomma. E a te come piacciono le zappe, Dino? Normalmente dipende se i lavori uno deve fare, se deve fare appunto insomma levare l'erba così, preferisco zappa fine ovviamente, zappa leggera, poi anche perché insomma deve andare di precisione, poi c'è sempre il rischio che lì può partire sempre le madonne, quando tu vai a zappare in mezzo all'erba tu levi magari anche una pianta buona e bisogna stare attenti, quindi si usa meglio insomma quelle più strette. Poi invece per fare solchio tutto, anche se magari si fanno fuoco a mano, si usa l'assolcatore dei motocoltivatori, e lì ci vogliono le zappe un po' più grosse, cioè, comunque normalmente con manico lungo, perché qui si usano comunque il manico abbastanza lungo. Un po' come quelli che vanno in caffetteria, no? Ordinano il caffè in tazza grande, in vetro, alza piccola. Te quando vai all'Agricop chiedi allora una zappa fine a manico lungo di lungo, d'ebano. Sì, bravo, sì, che bella, guarda storto, come per dire, non ci sono più contadini una volta, che ti era una zappa, si accontentava. Bella, bella. Sono i contadini radicalisti. Ormai, ormai, è così. Poi la prossima volta ci racconterai invece che guanti preferisci, perché questa è una rubrica bellissima, bello, cioè, questa parte ci tengo. L'abbigliamento è importante, sì, bello anche su guanti, sì, c'è, insomma, sono tante scuole di pensiero, si può approfondire. Bene. Bene, Dino. Una volta si fa il collegamento, indosserò guanti di vitello, puro vitello italiano. Giustamente. No, preparati, quindi prossimo argomento, guanti. Intanto vuoi dirci ancora qualcosa? Se no ti dobbiamo salutare, ci abbiamo la rassegna eventi. No, nulla, buon lavoro, perché ora è il momento fisico dove escono fuori proprio il contadino vero, e che il caldo, ora c'è tantissimo da lavorare, perché appunto come dicevo c'è da raccogliere, da levare l'erba, da continuare a piantare, da cominciare a seminare per le piante invernali, e con il caldo diventa sempre più dura, quindi sveglia molto molto presto e niente, è dura, ma... Senti, no, scusami, bisogna l'ultima domanda al volo. Qual è il momento migliore per decespugliare l'erba del campo, il momento migliore della giornata? Vabbè, ora come ora, secondo me, tutti i lavori è meglio farlo la mattina presto. Ok. È quello. Ora, in base a quello, se non è troppo bagnato, c'è troppo acqua, ma dipende da dove si resta. Però la mattina presto, anche se c'è... C'è il più fresco, però ogni tanto, ora ancora non ci sono, però cominciano a esserci purtroppo all'alba tanti moscerini, papatacci, roba qui che ti massacrano, però insomma, con il fresco si lavora sempre meglio. Bene, bene. Grazie mille, Dino, grazie mille. Grazie, Dino. Grazie a presto. Vai. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Concludere, vediamo un po' che cosa ci aspetta questo ricco fine settimana. Cosa c'è? Un sacco di eventi tutti il venerdì. Un venerdì ricco, ricchissimo. Allora, il venerdì innanzitutto Piazza Tasso con il mercato, che però non ci sarà solo il mercato, ma c'è anche l'arte di invecchiare. Quindi questo incontro sempre in zona mercato dalle 17 alle 19 più o meno, insomma, indicativamente. con un po' di persone a confronto, no? Tolstoj diceva che la vecchiaia è la più inattesa tra tutte le cose che possono capitare ad un essere umano. Sembra così lontana che non ci pensiamo fino al momento in cui, guardandoci allo specchio, ci troviamo imbiancati. Quindi, insomma, chiunque abbia voglia di approfondire un po'. Io posso continuare a... Vai, vai. A aspettare, aspettare il momento in cui mi guardo allo specchio e non pensarci o... Ma forse puoi, però io un'ascoltatina questa chiacchierata in Piazza Tasso venerdì la darei. Venite numerose. Anche perché devo dirlo, Camisetta, insomma, io inizio a vedere un po' i tuoi capelli bianchi. Anche di qualcuno che è molto più giovane. Ma anche la demenza senile comincia a vedere. Sì, si intravede anche quella, ma non lo so, quello forse un po'. Comunque, a seguire, come tutte le volte c'è qualche evento in Piazza Tasso, il mercato contadino offrirà un meraviglioso aperitivo contadino. E quindi siamo molto contenti. Qua cuppottano alle mie spalle, non riesco a capire. Quindi, a seguire sempre al mercato c'è l'apericontado, che è questa esperienza meravigliosa che ormai portiamo avanti. Come si chiama? Da apericontado. Come si chiama? Apericontado. Per te. Bello. Tu l'hai già fatto l'apericontado o è partito quando tu non c'eri? No, la prima volta, la prima edizione dell'apericontado c'eri. E questo è un modo... il finocchietto di Harvey. Esatto, è vero. È un modo per mangiare delle cose genuine, contadine, buone, sane, salutari, conoscendo anche tutti quelli che le producono. E poi abbiamo scoperto così, insomma, dal nostro buon Drio. Cosa succede anche venerdì poi, sera? Dopo l'apericontado... c'è il grande festone alla facoltà di agraria alle Cascine, quindi dalle 10:30, anzi anche 11, perché è un appuntamento da giovani, ma non solo, chiaramente può andare chi vuole. Inizierà il mega festone organizzato dal collettivo L'Agraria, come sempre, grandissimi. Noi li spingiamo sempre, ci si sostiene a vicenda. E quindi verso le 11 inizieranno i concerti con gli Ivanosca e a seguire Malasuerte e Firenze Sud, quindi due live molto combat militanti, e poi DJ set di OTK, quindi musica elettronica e tecnazza e roba spinta così. Quindi insomma vi abbiamo organizzato la serata del venerdì, sì, cioè, basta quello per tutto il weekend, cioè, basta il venerdì per tutto il sabato, poi ci si riposa, anzi anche tutti a zappare nel campo, perché comunque si spugliare. Il contadino non si può riposare neanche il sabato e la domenica. Vi ricordiamo poi come tutte le volte, insomma, il martedì l'appuntamento del mercato invece è all'Isolotto, sempre della nostra comunità. Quindi, eh sì, perché ora sono due. C'è stato il raddoppio. E poi se vogliamo già iniziare ad anticipare altri eventi, no dai. No, gli altri li scopriranno oggi, seguendoci piano. Sul FB di Comunità Resistenza Contadina Geron La Ronza, sul nostro blog genioclandestinofirenze.noblogs.org e scriveteci a radiocontado@insiberia.net. Come avete fatto oggi, ma ne basta una in più e poi non riusciamo a leggerne di più, quindi non esagerate. Ah, e per il resto ci siamo incredibilmente alle 16. Super in orario, 16:30, nella paura di sforare ancora. No, noi siamo veramente occidentali. Non c'è il muro che parla infinitamente per noi. Oggi ho fatto le sue veci, però credo aver spaccato abbastanza le palle oggi. Ma... possiamo chiedere al nostro ospite misterioso di fare un saluto ai microfoni? Ma è vero, c'è un ospite misterioso. C'è un ospite che si aggira. Lo chiamano Roventini. Ciao Contado, ciao a tutti. Ci auguriamo che potrebbe essere la nuova voce di Radio Contado della prossima stagione. Chi lo sa, spero sempre, è proprio bella la voce. E io direi Roventini, che è venuto qui a studiarci. Esatto. Noi studiamo lui studia noi. Chi sta prendendo appunti, vede, in realtà. Bene, salutiamo a tutti. Io farei soprattutto un saluto e un incoraggiamento a tutti i contadini, perché come dice Dino, arriva il vero periodo che mette alla prova i contadini. Dai, riga. In bocca al lupo a tutti e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao.